Con Andrea Pogosnic, curatore del libro I teatri di margine operativo, che sarà presentato a Roma alla libreria Giuffà domenica 16 dicembre. Andrea, ben trovato. Buongiorno, ben trovato a te Federico. Ce ne parli? È un progetto che abbiamo portato avanti ormai praticamente da un anno. Insomma, io ci sto lavorando da poco più di un anno con margine operativo e con altre persone che hanno contribuito, altri amici, compagni di viaggio. Ti dico che sostanzialmente appunto un po' più di un anno fa Alessandra Ferraro e Paco Graziani a un certo punto mi hanno chiamato dicendomi che Paolo Ruffini li aveva contattati dalla collana Spaesamenti di Editoria Spettacolo, dicendo loro che avrebbe avuto piacere a far entrare nella collana un libro dedicato, no, al lavoro di margine operativo, alla compagnia margine operativo. E allora insieme loro due hanno pensato a un curatore che potevo essere io, perché avevo seguito insomma negli ultimi anni parecchio il lavoro di spettacoli di margine operativo, avevo anche discusso animatamente con Paco e Alessandra, e da quel momento in poi ci siamo iniziati un po' a immaginare questo libro, e immaginare questo libro ha voluto dire anche un po' ripercorrere poi quelle zone di Roma di cui il libro parla, no? Come al Palo della Morte, andare a torpignattare insieme ad Alessandra e Paco a casa loro per trovare vecchie fotografie, perché poi la cosa interessante, Federico, è che questo libro non fotografa solo gli ultimi anni appunto di margine operativo, ma mette una lente anche sulla storia, no? Su quello che sostanzialmente che poi la nostra generazione, dico la mia, quella dei trentenni, 35enni, ha solo sfiorato rispetto alla produzione culturale romana, e lì secondo me diventa interessante. Beh, è interessante anche chiaramente se uno è appassionato di teatro, no? Sì. Si studia e capisce meglio il lavoro di margine operativo, lo mette in analisi e in confronto e in relazione rispetto alla realtà che ci circonda, rispetto al teatro. Però questo libro secondo me pone una luce interessante anche appunto su tutta una produzione culturale underground, controculturale appunto, che a Roma era molto forte, come ben sai tu che stai qui alla Radio Onda Rossa, fino alla fine degli anni 90, no? E che poi è andata a scemare invece. Allora il libro, ad esempio il mio saggio che introduce il libro, inizia parlando del Forte Prenestino, visto come questa grande bocca dove tutto ha inizio, no? Come se fosse lo stomaco del mostro nel quale sono germinati alcuni batteri, e tra questi batteri della cultura underground romana c'era appunto margine operativo. Alla fine degli anni 90 questi due ragazzi si conoscono a Roma e danno vita a questa compagnia. Sì. E da lì poi iniziamo questo viaggio nel lavoro di Paolo e Alessandra. Ecco, come è organizzato il libro? Il libro ha appunto un mio saggio che ripercorre il lavoro, come ti dicevo, poi c'è una lunga intervista che io ho fatto a loro, ed è un'intervista insomma nella quale viene raccontata anche tutta questa parte relativa alla produzione indipendente, alla circuitazione. Interessante secondo me che i ragazzi appunto ventenni di oggi possano scoprire ad esempio che prima esisteva tutta una circuitazione per il teatro, no? Indipendente, di ricerca, che nasceva dentro i centri sociali, dentro gli spazi indipendenti, e questa circuitazione era addirittura nazionale, Federico, cioè una circuitazione che ti portava, no, col tuo spettacolo, tu magari facevi nascere dentro al Forte Prenestino, poi ti portava fino a Leoncavallo, no? Sì. E questa roba un po' è sparita chiaramente, o comunque è diminuita molto di energia e di forza per vari motivi. Ripescarla lì è stata interessante. Questa intervista ad esempio racconta molto molto di questa situazione, racconta poi tutto il percorso politico anche di Alessandra e Paco, quello che è successo dopo Genova 2001, il fatto di uscire ad esempio dal Forte Prenestino a un certo punto e diventare una compagnia nomade, no? Nomade che a sua volta si inventa a un certo punto una roba decisamente sui generis come quella di attraversamenti multipli, no? Questo festival radicato nella città da una parte, ma allo stesso tempo sradicato, questo festival urbano ma anche di arte performativa contemporanea. Insomma, una sorta di mostro a sette teste, no? Sì. Poi dopo questa intervista c'è un saggio di Letizia Bernazza, che è una studiosa giornalista che anche lei ha seguito molto il lavoro di Margine praticamente sin dall'inizio, e dunque abbiamo avuto piacere a coinvolgerla. Ed è un saggio che cerca le relazioni tra la compagnia e il pubblico, si pone alcune questioni appunto rispetto alle spettatorialità che gli spettacoli di margine operativo possono avere e via dicendo. E poi c'è tutta una parte con le fotografie della compagnia, addirittura degli spettacoli quelli più vecchi della fine degli anni 90, questo diventa interessante perché è una memoria storica e chiaramente anche visiva. Poi ci sono tutta una serie di testimonianze di persone che hanno incontrato nella loro carriera, nella loro vita, margine operativo per un motivo o per l'altro, perché magari hanno collaborato ad attraversamenti multipli o perché sono stati spettatori particolari, tra i quali ci sei anche tu, chiaramente. E questa parte è una parte molto emotiva, no? Molto emozionale anche, perché ognuno poi di quelli che sono entrati a contatto con il lavoro di margine lo racconta in maniera molto emotiva. Poi c'è un saggio di Paolo Ruffini che chiude il libro e basta, mi pare che l'ho mappato tutto. Sì. Ecco, Andrea, in conclusione, quali sono a tuo avviso gli elementi qualificanti della loro esperienza? Beh, guarda, quello che a me è interessato raccontare poi molto nel libro di loro come compagnia è stato quello di cercare un po' di dimostrare come ci sono due percorsi che sono paralleli ma che non possono non intrecciarsi, ovvero da una parte il percorso della politica e dall'altra parte il percorso delle estetiche. Perché? Perché uno alimenta l'altro, cioè tutti gli spettacoli sostanzialmente nuovi di margine operativo, gli ultimi tre, da Partisan a Presunta Morte, ovvero quello su Cucchi, fino al Palo della Morte, ovvero quello dell'omicidio a Torpignattara, sono tre spettacoli nei quali evolve il loro linguaggio da una parte, ok, ma evolve anche la loro visione politica del mondo ed emerge fuori, emerge in maniera sempre più netta che questa compagnia ha la volontà di raccontare veramente la realtà in cui vive, no? La realtà di cui deve nutrirsi, però riesce a farlo con dei linguaggi che sono i nostri, che sono quelli del contemporaneo, dunque teatralmente efficaci, teatralmente spiazzanti molte volte, ecco. Sì. Allora, ricordiamo l'appuntamento con la presentazione del libro I teatri di margine operativo a Roma, libreria Giuffà, domenica 16 dicembre. Un ringraziamento e un saluto al curatore Andrea Pocosnic. Un abbraccio e ci si vede lì. Grazie a te, ci vediamo domenica. Ciao. Ciao.